Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Mi trovo davanti alla porta di San Giovanni della bellissima città di San Gimignano, in provincia di Siena. Sto passando la via Francigena, che da qui faceva passare i pellegrini che volevano venire dal centro dell'Europa a Roma. Ma sono qua per segnalarvi una grande novità. Il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, ha avuto in donazione una casa torre proprio di San Gimignano, una di queste case torre che rendono celebre in tutto il mondo questa città, che come sapete è ricchissima ancora oggi di torri medievali. La casa e torre si chiama Casa Torre Campatelli perché è stata donata da Lidia Campatelli, che qui è vissuta molti anni della sua vita e qui è vissuta soprattutto la sua famiglia e i suoi antenati. Il FAI, ereditando questa casa museo, ha dovuto trovare una destinazione d'uso che fosse compatibile con il turismo attuale, e trovo che la soluzione sia stata veramente geniale. Perché? Perché il turista viene invitato a entrare in questa casa e la prima cosa che si fa è andare in solaio. Il solaio, infatti, è il luogo dove è possibile, attraverso delle postazioni multimediali proiettate su pareti perpendicolari, quindi c'è quasi l'effetto stereo delle immagini, apprendere la storia di San Gimignano, cioè capire come mai si è sviluppata questa città, perché si è sviluppata lì, perché si è sviluppata in quel modo. Quindi è molto interessante, perché diventa una sorta di anticamera della città andare a visitare questa casa torre. Poi dal solaio si può soprattutto accedere alla vera e propria torre medievale, che è altissima e che per l'occasione è stata svuotata di tutti i piani di legno. Quindi noi abbiamo l'impressione, entrando, veramente della vastità e dell'arditezza di questa costruzione. Ma poi il visitatore viene invitato a scendere al piano nobile, perché proprio a ridosso della torre nel 700 venne costruito un palazzo, e questo palazzo è stato vissuto nel 700, nell'800, nel 900, fino agli ultimi anni, proprio dalla famiglia Campatelli. Ecco, qui si può andare liberamente a curiosare in tutte le stanze della casa e ci si rende conto con grande chiarezza come è vissuta una ricca famiglia della borghesia e dell'impresa tra 800 e 900. Quindi il FAI ha deciso di fissare questo pezzo di storia attraverso le vicende, i mobili, gli album e tutti i ninnoli lasciati in quella casa da Lidia Campatelli.